Nel film Waiting to Exhale, che in Italia è stato intitolato Donne, ma che più o meno si sarebbe anche potuto tradurre come, non so, aspettando un bel respiro di sollievo, il regista Forrest Whitaker racconta l'infelicità di quattro amiche. Una volta l'anno, credo giorno di Capodanno, si incontrano, si raccontano com'è andata, come sta andando. Si ricostruisce fra l'altro un colloquio con un fidanzato dove una di queste ragazze dice cosa vorrebbe da un'eventuale loro vita comune. Allora, dei bambini, una casa e andare a cena tre volte la settimana. Andare a cena fuori tre volte la settimana. Ora, nel suo film più recente, C'era un cinese in coma, Verdone impersona un agente teatrale fanfarone, rovina famiglie, a maggior ragione se si tratta della propria, perennemente in cerca di soldi e successi e perennemente destinato a ottenere il contrario di quanto si prefigge. Finalmente, dopo tanto tempo di latitanza morale e fisica, una sera Verdone porta la moglie fuori a cena. Lei si mette il vestito più bello, ma deve presto scoprire che si tratta, diciamo così, di una cena di lavoro. Il marito non la porta al ristorante, ma a casa di un amico, l'ultima sua scoperta da lanciare nel mondo dello spettacolo. Finisce perfino che la poverina, con il suo abito da sera, la cena se la deve cucinare lei, e una volta piazzata in tavola per i due uomini egoisticamente coinvolti dai propri sogni bugiardi, se ne va sbattendo la porta. Nel 1989 la sociologa Joanne Finkelstein ha scritto un libro sull'andare a pranzo fuori. È uscito nella versione italiana nel 92 dal Mulino. Prendendo le mosse da alcuni dati statistici che dimostrano come dai primi anni 70 in poi in molti paesi del mondo cosiddetto occidentale, Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone, Gran Bretagna e Francia, le spese della gente in ristoranti hanno avuto un incremento straordinario, la Finkelstein sviluppa una serrata indagine sulle motivazioni che ci spingono a cenare fuori casa, assegnando a questa attività, come nel caso delle eroine dei due film che ricordavo, no, assegnandole un valore notevole. Il piacere smodato che la gente trae dal consumo di cibi in luoghi pubblici, buttandosi nel fast food o nell'etnico o nel ristorante di lusso, nella trattoria sotto casa, a seconda degli umori o del denaro a disposizione, questo piacere smodato non può essere spiegato né dalla qualità del cibo, né dalle fatiche risparmiate, né tantomeno dalla peculiarità dei rapporti umani che in questi luoghi si può intrattenere. La Finkelstein rammenta bene la tesi di Simmel concernente tutti i casi in cui uno scambio sia controllato dal denaro, casi in cui i rapporti umani vengono hic et nunc spersonalizzati e banalizzati, ed è anche consapevole dell'importanza del ristorante nell'affermazione di valori borghesi. Tuttavia, analizzando le strutture ambientali e le forme di comunicazione che caratterizzano i ristoranti e mettendo bene in evidenza quanto nel ristorante rimanga delle differenze di classe e di genere, la Finkelstein giunge a sostenere la tesi che pranzare fuori costituisce un'attività intrinsecamente incivile. La sua argomentazione pressappoco è la seguente. Allora, se definiamo civile la condotta che si manifesta negli scambi tra individui che sono in egual misura coscienti di sé e rispettosi l'uno dell'altro, che evitano le differenze di potere, che non mediano i loro scambi attraverso segnali che evidenzino la loro condizione sociale o il loro prestigio, cioè se crediamo che il carattere distintivo della civiltà sia il grado di coinvolgimento richiesto ai soggetti che interagiscono, e se constatiamo che pranzare al ristorante ci solleva dal dare forma alla socialità, che al ristorante di principio tutti trasformano gli altri in merce o strumenti per i propri fini, o che al ristorante si assiste a tutta una serie di scambi rituali che impediscono il riconoscimento dell'altro come un individuo singolo, o che ancora al ristorante vigono norme sociali che appaiono ben accette perché diminuiscono la necessità di pensare al modo e alla ragione per cui dovremmo agire in una determinata maniera, allora ne consegue che il pranzar fuori contiene i più succulenti ingredienti dell'inciviltà. Ci troviamo così a dover sciogliere i nodi di un'apparente contraddizione. Le donne infelici raccontateci dal cinema, ribellandosi alla schiavitù della cucina o chiedendo un po' di attenzione tutta per loro, almeno in quel paradigma dei rapporti sociali che definisce l'uguaglianza degli esseri umani e dei loro diritti, esprimono valori positivi. Ma cercando di sanare le proprie ferite con una soluzione sostanzialmente alienante nel medesimo paradigma, rincorrono valori negativi. Non sarebbe la prima volta che, per esprimere la vicenda con la metafora appropriata, diciamo che si cade dalla padella alla brace. Se si tiene in debito conto quanto di mentale ci sia nelle situazioni descritte dalla Finkelstein, come peraltro in ogni situazione in cui gli esseri umani investono di valore qualcosa che di per sé non può mai essere né negativo né positivo, ci si deve ricredere e ammettere anche che contraddizione ideologica non ci sia affatto. Per quanto cogente sia un ambiente, e per quanto codificati e stilizzati possano essere i comportamenti che in questo ambiente possono innescarsi, c'è sempre per ciascuno di noi la possibilità di ribaltare le procedure, ignorare i vincoli e iniettare nella situazione una buona dose di creatività. Se la trasgressione non troverà il conforto di uno scambio comunicativo adeguato, pazienza, rimarrà ad onore di chi ci ha tentato e addonta di chi si è rifiutato. Come le rivoluzioni possono cominciare ovunque, in una galera, in un'aula di tribunale, in una piazza, forse anche in un fast food, così anche andando a cena fuori si può tentare di instaurare nuovi rapporti umani o di suturare gli sbreghi di un rapporto conciato da buttar via. Ferma restando l'inciviltà della stazione prescelta nella storia sociale del mondo agiato in cui il tentativo viene effettuato. Già nel 1968, anno che solitamente ricordiamo per tutt'altri avvenimenti, oltre la metà della popolazione degli Stati Uniti d'America abitava a una distanza di 3 minuti di macchina da un punto di vendita McDonald's. Il manuale di addestramento dei dipendenti della McDonald's in America consta di ben 600 pagine. La McDonald's semplifica la vita del cliente tanto quanto la complica al dipendente. Che ci sia qualcosa di moralmente poco chiaro è allora evidente. Nei giorni scorsi il Corriere della Sera ha pubblicato, non so più in quale occasione, una fotografia non recentissima in cui Andreotti, Berlusconi e Casini sono colti a tavola al ristorante. Casini si era accorto del fotografo e accortamente è rimasto in posa. Gli altri due no. E ha voluto il caso, o ha voluto l'arte alla quale sono stati addestrati, sia che i loro movimenti fossero perfettamente sincronizzati e sia che i bocconi infilzati sulle rispettive forchette fossero troppo grandi per le loro bocche spalancate. Nonostante i legittimi dubbi, tuttavia è presumibile che nel prosieguo, in questo prosieguo non testimoniato e non documentato, con sforzo ce l'abbiano fatta entrambi, magari per il rotto della cuffia. Olszewski e Burden, due ristorantologi, nel 1986 avevano notato ciò che qualsiasi cliente sapeva già da un pezzo, e cioè che il pranzo consumato in gruppo offre ogni genere di possibilità di estorsione. Ma loro non si riferivano a chi mangia, ma a chi gli dà da mangiare.